Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in attesa della consulta della Corte Costituzionale. Ne ha già parlato pochi minuti fa Oscar Giannino. La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità del blocco degli stipendi nel pubblico impiego. Si rischia per il governo e per le casse dello Stato una vicenda analoga, anche se il tema è molto diverso, a quanto deciso la Corte Costituzionale sul blocco dell'adeguamento inflattivo per le pensioni e quindi l'indicizzazione delle pensioni. Si rischia, dicevo, un nuovo buco nei conti pubblici. I ricorsi infatti riguardano i blocchi applicati nel 2011, 2012, 2013, 2014. Se venissero accolti tutti i ricorsi, l'impatto sui conti pubblici potrebbe raggiungere 35 miliardi di euro. Se la bocciatura riguardasse solo il 2014-2015 si scenderebbe invece a 7 miliardi di euro. Nel 2013 la Corte in realtà si era già espressa sul blocco dell'adeguamento salariale nel pubblico impiego, però dicendo che era legittimo purché temporaneo. Sostanzialmente per un dipendente pubblico dove lo stipendio medio è di 22.000 euro lordi l'anno, il blocco causa circa una perdita di 2.000-2.200 euro ogni anno, 2.200 euro lordi chiaramente. Perché questo lo dico? Perché vedo molti messaggi anche come coda del tema trattato da Oscar Giannino, che si dividono tra quelli che dicono sì, ma basta altri soldi al pubblico impiego. Attenzione, pubblico impiego non è fatto di solo di persone che non lavorano, ci sono decine di migliaia, centinaia di migliaia di bravissimi dipendenti di pubblico impiego. Altra cosa è l'utilizzo del pubblico impiego, la valutazione del merito nel pubblico impiego, che è completamente assente nonostante varie dichiarazioni. E come abbiamo detto anche per una forma di opposizione culturale, è inutile girarci attorno, dei sindacati, l'abbiamo raccontato in tantissimi casi. Pubblico impiego non vuol dire solo i dipendenti statali, vuol dire tutti i dipendenti del settore pubblico, quindi anche regionale e locale, e altri che dicono ma insomma noi abbiamo lo stipendio bloccato e non abbiamo più avuto adeguamenti per quello che riguarda il nostro stipendio. Diciamo che chi scrive, immagino, dal settore privato, vedo gli autoferrotranvieri che hanno contratto scaduto da 8 anni per risanare dell'ATAC. Sì, è vero, attenzione che sull'ATAC abbiamo raccontato anche abitudini non edificanti su malattia, assenteismo e quant'altro, non dovute a tutti i dipendenti, però che ci sono dentro come problema. Ma andando in generale, chi lavora nel settore privato fa notare che il pubblico impiego è vero che ha avuto il blocco dei salari, ma non ha avuto di fatto alcuna emorragia. Tutta la disoccupazione o la stragrande maggioranza si è scaricata nel settore privato, quindi se siamo passati dal 7% di disoccupazione al 13% da quando è iniziata questa crisi, beh, quel 7%, il raddoppio della disoccupazione, è tutto attribuibile al settore privato. Uno può dire bottiglia mezza piena, mezzo vuota. Attenzione, tra non avere l'adeguamento salariale e perdere il posto di lavoro passa una bella differenza, fermo restando che tutti e due sono cose negative, ma una è più negativa di un'altra. Altri invece fanno notare sulla sanità, per carità ne parleremo, ma soprattutto cercheremo. Sì, alcuni scrivono che i dipendenti pubblici sono vincitori di concorso, mentre i dipendenti privati entrano con il clientelismo e l'umiliazione del dipendente. No, guardate, questo non si può sentire. Allora, il fatto che dentro il pubblico impiego si entri per concorso non può essere, lo ha spiegato bene a questi microfoni anche Pietro Ichino, non può essere un elemento per dire che la flessibilità chiesta al privato non si possa applicare al pubblico, e mi riferisco al Jobs Act. Nel pubblico ancora non c'è questo problema perché tanto è bloccato il turnover, quindi ne sono bloccate le assunzioni. Dire che i dipendenti privati entrano col clientelismo e l'umiliazione nel privato, per carità, ci saranno casi sicuramente, Però nel privato, avendo un bilancio ed essendo in concorrenza, tendi, abbiate pazienza, a essere un po' più severo anche sul merito. Il vero problema del settore pubblico non è l'entrata con concorso e non è nemmeno come vengono fatti questi concorsi, anche se delle volte qualcosa da dire ce l'avremmo. Il vero tema è come misuri l'efficienza, come premi i dipendenti meritevoli e come punisci, perché non esiste merito solo premiando, anche pubblico impiego. Quando guardiamo le valutazioni dei dirigenti, 95-98% premiati, vale anche per l'ATAC, l'abbiamo appena raccontato venerdì scorso nella nostra poco invidiabile classifica dei 5 sprechi della settimana. Allora, il problema è come valuti e punisci chi lavora male. Non c'è nulla di male. Punire non vuol dire licenziare, vuol dire non dare premi, vuol dire anche dare dei vincoli, e come premi invece chi lavora bene. Questo è il problema. Allora, comunque ne parleremo. Scrive un altro ascoltatore: hanno il posto sicuro, sono quasi impunibili, devono ringraziare Dio che hanno lo stipendio, io sono precario dal 2003. Mi sembra che siano due mondi che si parlano poco, e devo dire che il mondo del pubblico impiego forse non ha ben presente delle volte che cosa sia successo nel settore privato. Allora, questo tema che tratteremo, insomma, in attesa della sentenza della Consulta riunita dalle 11 di mattina, cercheremo di capire quando arriverà la notizia. Nel frattempo, dati di oggi riguardano fatturato e produzione dell'industria. Allora, ordini e fatturato industriale. Il dato buono è quello sugli ordinativi di aprile, al livello più alto dal 2010, più 5,4% rispetto a marzo e più 8% rispetto all'aprile del 2014. Gli ordinativi sono importanti perché sono un indicatore anticipatore di come andrà l'economia. Sul fatturato, invece, il dato è meno buono, nel senso che è in calo dello 0,6, ma è anche in calo rispetto a un anno prima, meno 0,2%, male soprattutto il fatturato dei beni strumentali, meno 3,2%. L'Istat fa anche sapere che prosegue la corsa dell'industria dell'auto. Ad aprile sono state vendute il fatturato dell'industria dell'auto è cresciuto del 32% rispetto all'aprile del 2014, e anche gli ordinativi sono in crescita del 30%, del 29,5%. Questo per quello che riguarda i dati che commenteremo in apertura, e tra l'altro cercando di unire anche quello che sta le notizie oggi non così forti sulla Grecia, tant'è che le borse sono Milano più 0,36, Francoforte più 0,9, Parigi più 1,3, Londra più 0,30, il Dow Jones più 0,11. Molto bene anche oggi la borsa di Atene, ne parleremo, e anche del catasto parleremo, perché alle 18 inizia un Consiglio dei Ministri, o dovrebbe iniziare, con un pacchetto di decreti fiscali all'ordine del giorno, tra cui il provvedimento per risolvere la famosa questione dei dirigenti delle agenzie fiscali. Ne abbiamo parlato. Il fatto che alcuni che sia stato da alcuni tribunali, vado a memoria, Lecce e Milano e Lecce, stabilito che i funzionari dell'Agenzia delle Entrate che operavano come dirigenti avevano fatto degli atti illegittimi. Lo ha deciso la Corte Costituzionale e sono arrivate le prime sentenze su questo. Ma la riforma del catasto dovrebbe slittare, anche perché alcune simulazioni avevano evidenziato un aumento del valore dell'abitazione di 6 volte a Napoli, di 4 volte a Roma, di 5 volte a Venezia, valori che salirebbero sensibilmente ovunque nonostante uno sconto del 30% previsto per attutire i rialzi. Il nuovo calcolo dei valori catastali risulterebbe particolarmente penalizzante per le abitazioni classificate come economiche, categoria A3 A4, specialmente se ubicate nei centri storici. Lì cosa è successo? È successo che c'è stata nel corso degli anni una rivalutazione dei centri storici che il catasto non ha seguito. Lì bisogna capire se vai a toccare però persone che e vai a complicare ulteriormente la situazione di alcune famiglie, oppure se rendi più equa la valutazione, quello che è il valore catastale di un immobile che vale tantissimo ma risulta poco per il catasto, rispetto a immobili che valgono mediamente meno ma risultano con valori più alti per il valore catastale, perché a quel punto saneresti un'ingiustizia. Ne parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Autoferrotranvieri, io non ho detto semplicemente che capisco benissimo la difficoltà degli autoferrotranvieri e anche dell'ATAC di Roma. Faccio notare che dovete prenderla anche con le vostre organizzazioni sindacali. Non voglio ritornare sulla vicenda ATAC e su quello che è successo, ma lì c'è stato anche l'appoggio dei sindacati interni, e mi riferisco alla gestione ATAC, ai premi e anche quello che sta capitando quanto assenteismo. Ci mancherebbe, sappiamo benissimo che la maggior parte degli autoferrotranvieri sono lavoratori onesti e che rischiano di pagare anche per i disonesti. Comunque, andiamo avanti con le notizie di carattere internazionale. Allora, per quello che riguarda i tassi di interesse americani, a settembre le chance di un aumento dei tassi di interesse americani sono appunto a settembre del 50%. Andando all'Europa, lo ha affermato il governatore della Fed Jerome Powell, sottolineando che quest'anno, se le condizioni dell'economia lo consentiranno, ci potrebbero essere addirittura due aumenti, uno a settembre e uno a dicembre. La Banca Centrale Europea ha alzato la liquidità di emergenza, la cosiddetta ELA, per la Grecia a 89 miliardi. L'Eurogruppo straordinario sulla Grecia è stato convocato domani per le 19. La nuova riunione dovrà ascoltare il parere delle istituzioni sulle proposte greche, approvare la lista delle azioni prioritarie che la Grecia si impegna ad approvare subito e poi decidere sul percorso per arrivare a dare i 7 miliardi 200 milioni di euro alla Grecia che restano da dare per il programma di tranche di aiuti alla Grecia. Chi mantiene la posizione più dura però è il Fondo Monetario Internazionale. Nell'incontro di questa mattina tra le istituzioni che devono valutare le proposte greche, ha inviato un tecnico di secondo livello senza mandato negoziale, cosa che potrebbe ritardare l'esame. Le altre istituzioni, quindi la Commissione Europea e la BCE, hanno inviato tecnici di alto livello. Il Fondo Monetario non è d'accordo con la base di lavoro, ritengono troppo distante dal memorandum, però ricordo che sempre il Fondo Monetario è quello, in maniera più ampia, che ha fatto autocritica sulle politiche adottate nei confronti della Grecia. Quindi è vero che si è dimesso il capo economista Blanchard, che era un approccio meno monetarista del Fondo Monetario Internazionale, però non è che puoi fare autocritica per come hai gestito la crisi greca tu come Fondo Monetario Internazionale, e il fatto che obiettivamente la Grecia non solo non si sia risollevata, ma si è messa ancora peggio come debito, e poi fare la faccia feroce in fase trattativa. Allora, nel frattempo anche Tsipras ha i suoi problemi interni, perché potrebbe decidere di fare ricorso alle elezioni anticipate oppure indire un referendum popolare se il Parlamento non dovesse approvare l'accordo, che a questo punto è atteso, tra il governo di Atene e i suoi creditori. Ci sono state infatti dure reazioni nel partito di Tsipras, che Syriza, ma anche reazioni da parte di alcuni esponenti del governo, penso al ministro della difesa e al leader dei greci indipendenti, il quale ha dichiarato che non accetterà mai l'abolizione delle aliquote IVA scontate sulle isole. Però capito, le isole greche sono quelle che tutto sommato se la cavano meglio grazie al turismo. I veri problemi di carattere sociale in Grecia ci sono dappertutto, ma si concretizzano a maggior ragione ad Atene, a Salonicco, nei grandi centri urbani, non nelle isole dove, diciamocela tutta, cari greci, il nero domina sovrano e l'IVA spesso non sapete neanche cosa sia, l'IVA veramente pagata. E allora, adesso, con tutta la comprensione che abbiamo per la Grecia e le critiche che abbiamo fatto al modo in cui è stata condotta questa crisi, però anche i greci si facciano un po' un esame di coscienza. adesso se non vuoi nemmeno l'abolizione delle aliquote IVA agevolate sulle isole, vabbè. Allora, Renzi, durante la visita al Museo Egizio di Torino e poi alla visita, all'inaugurazione della più alta funivia d'Europa, se non ricordo male, Skyway, adesso vado a memoria, la funivia del Monte Bianco, diceva, ha detto, non siamo più il malato dell'Italia, non è più il malato d'Europa, sbloccheremo i cantieri fermi, sperem, aggiungo io, che porteranno a un punto percentuale in più di PIL, siamo contenti di una crescita allo 0,3%, ma non basta, l'Europa deve tornare a sognare. In generale il sistema pubblico italiano ha ancora molto molto molto molto da fare per semplificare le procedure. Vi segnalo, giovedì a Roma faremo una conferenza stampa per dimostrare come, se sbloccassimo, e vogliamo sbloccarli nell'arco delle prossime settimane e mesi, i cantieri semplicemente fermi per ritardi, intoppi, problemi, ricorsi, TAR contro TAR e compagnia bella, se sbloccassimo questo avremmo più di un punto per cento di PIL, più di 17 miliardi di euro rimessi nell'economia. Nel prossimo anno, anno e mezzo, vedremo se il PIL, che è ritornato a crescere dopo 11 trimestri negativi, fa il salto. No, perché naturalmente noi siamo contenti che il PIL sia più 0,3, però ancora è poco rispetto a quello di cui abbiamo bisogno. C'è necessità di investire molto sull'edilizia. Dei cantieri, però è una vicenda in cui lo sblocco dei cantieri riguarda intanto l'edilizia scolastica, che spesso abbiamo ricordato essere fondamentale non solo per un principio di civiltà di un paese, non si può morire nel 2015 come ahimè delle volte capita perché crolla un pezzo di soffitto di una scuola, non si può morire mai, ma men che meno nel 2015, ma anche perché da un punto di vista prettamente e solamente economico quelli sono gli interventi che hanno una ricaduta immediata sul territorio, gli appalti piccoli, microappalti o appalti piccoli che danno lavoro subito piuttosto o rispetto alle grandi opere, non che non ci vogliono le grandi opere, ma se uno deve scegliere in questo momento per far ripartire i consumi interni, meglio 10, 100, 1000 micro interventi di edilizia scolastica, non solo, piuttosto che uno, due grandi opere che hanno una ricaduta molto minore sul territorio come il potere d'acquisto e il lavoro che forniscono. Comunque vedremo se si sbloccheranno i cantieri e anche, mi permetterei di aggiungere, se si riuscirà a superare questo maledetto, assurdo, ignobile, controproducente, folle patto di stabilità interno, che è quello che blocca nelle case dei comuni virtuosi, in tutto, l'ultimo calcolo era di almeno 2 miliardi di euro bloccati nelle casse dei comuni virtuosi che non li possono spendere per non aumentare il deficit, e lì bisogna fare un'operazione di carattere europeo. Se un comune virtuoso ha risparmiato e ha dei soldi in cassa che vuole utilizzare per le strade, per le scuole, ma deve poterlo fare perché non sta distruggendo il suo bilancio, ha un bilancio inutile e ha dei soldi in cassa. E anche per i comuni vale lo stesso discorso fatto in precedenza per l'edilizia scolastica. Allora, il Jobs Act, il decreto attuativo, quello che contiene le contestate norme sul controllo a distanza dei lavoratori, è equilibrato, secondo il ministro per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha detto però, attenzione, ascolteremo le commissioni, per noi il Jobs Act è equilibrato, lo ha detto a margine della relazione annuale del Garante della Privacy alla Camera. In realtà il Garante si è semplicemente limitato a auspicare, ovviamente senza prendere posizione nel tema specifico del Jobs Act, che ci sia il giusto equilibrio, che il governo ha ben presente e che ovviamente ha tenuto presente anche intervenendo, tra il diritto, ovviamente la riservatezza dei lavoratori, ma anche la modernizzazione della disciplina alla luce dei nuovi strumenti tecnologici di lavoro che oggi fanno parte della quotidianità di tanti lavoratori. Sicuramente già nel testo del governo, poi se nei pareri che verranno dati dalle commissioni ci saranno ulteriori suggerimenti, li prenderemo in considerazione come sempre abbiamo fatto. E allora, cosa ha detto il Garante a proposito, il Garante della Privacy, Antonello Soro? In effetti ha auspicato che vengano impedite, del resto qui siamo un po' all'ovvio, forme di controlli ingiustificati sui lavoratori attraverso il personal computer, i tablet e i telefoni aziendali. Nei rapporti di lavoro, il crescente ricorso alle tecnologie nell'organizzazione aziendale I diffusi sistemi di geolocalizzazione e telecamere intelligenti hanno sfumato la linea un tempo netta tra vita privata e lavorativa. È auspicabile che il decreto legislativo all'esame delle Camere sappia ordinare i cambiamenti resi possibili dalle innovazioni in una cornice di garanzie che impediscano forme ingiustificate e invasive di controllo, nel rispetto della delega e dei vincoli della legislazione europea. Un più profondo monitoraggio di impianti e strumenti non deve tradursi in una indebita profilazione delle persone che lavorano. Occorre sempre di più coniugare l'esigenza di efficienza delle imprese con la tutela dei diritti, un obiettivo che ha ispirato tutte le nostre decisioni nelle numerose verifiche preliminari esaminate quest'anno. Allora, è vero quello che dice il Garante, che le nuove tecnologie hanno annullato spesso la distinzione, la differenza tra ciò che è privato e ciò che è pubblico, ciò che è lavorativo. Vale e fa bene invitare appunto a coniugare quello che può essere un controllo che fornisce la tecnologia con invasione della sfera privata. Vale anche al contrario, non giochiamoci troppo sopra. Chi di voi in ascolto che lavora ha un computer al lavoro, non ha mai, o un telefono aziendale, non ha mai fatto una telefonata di carattere privato o ha usato il computer per navigare per motivi privati? Allora, si è annullata questa distanza sia in un senso che nell'altro. Andiamo avanti perché alcuni trovano che il Garante abbia detto delle banalità, vabbè. Allora andiamo avanti ancora con due notizie, perché sempre sul Jobs Act le misure previste per il 2015 in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, l'estensione del congedo parentale, l'estensione del congedo parentale sarà strutturale una volta approvato in via definitiva il decreto di riforma degli ammortizzatori sociali. E poi invece c'è una notizia su cui si concentrano i nostri 100 secondi, quelli trasmessi sia da Radio 24 che da Radio Dimensione Suono. Mi riferisco, visto che si parlava del merito nel pubblico, in questo caso parliamo del merito nel privato. L'80% dello stipendio degli amministratori delegati delle banche è costituito dalla parte fissa, mentre solo il 20% è legato ai risultati. Lo denuncia la Wilk nel suo rapporto, dicendo che è impressionante il fatto che ai lavoratori venga chiesta maggiore flessibilità, mentre i numeri 1 hanno la loro retribuzione non collegata o scarsamente collegata al bilancio. Tra l'altro sempre la Wilk fa notare come il rapporto tra retribuzione dei manager bancari e assicurativi e loro dipendenti sia rimasto invariato nel 2014 di 1 a 53. Guardando un dato depurato dai 3,6 milioni di euro di penale pagati all'ex capo di Intesa San Paolo Enrico Cucchiani per il recesso, per il licenziamento anticipato, e si va quindi dai 2.300 milioni del numero 1 di Unicredit agli 800.000 del numero 1 del Credem. In maniera critica la WIC dice, insomma, siamo ancora rimasti a 53 volte di rapporto, mentre nel settore assicurativo questo rapporto addirittura è salito a 81 volte. Il commento, dicevamo, di Alessandro Prateroti per i nostri 100 secondi. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Prateroti. La grande abbuffata di miliardi a spese degli investitori e spesso degli ignari correntisti sembra davvero essere finita nella piazza finanziaria londinese, la più importante del mondo dopo Wall Street. Da oggi scattano infatti le nuove regole sull'assegnazione dei bonus, quei ricchi premi di fine anno che spesso erano 3, 4, 5 e persino 10 volte lo stipendio anno. Ebbene, dopo gli scandali del 2007 e 2008 e soprattutto dopo i tanti salvataggi di banche e lo sdegno che ne è seguito, il regolatore inglese ha stabilito che d'ora in poi dovranno passare almeno 3 anni prima che i banchieri ricevano i bonus dal momento in cui sono stati assegnati. Addirittura dovranno aspettarne 10 prima di poterli spendere tutti, perché questo è il limite fissato per le possibili revocatorie nel caso emergano degli scandali che li riguardano. In alcuni casi ci saranno delle sanzioni, ma riguardano soltanto i neoassunti. Comunque sia, i nuovi bonus non potranno più superare il 100% dello stipendio, una forma di compensazione diciamo così, per i soldi buttati e spesi a causa degli eccessivi rischi presi dalla comunità finanziaria inglese insieme a quella americana. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Borsa chiuso più 0,35%, adesso c'è il meteo, la pubblicità, poi il primo tema di questa puntata, e mi riferisco chiaramente al Consiglio dei Ministri e anche ai dati di carattere economico interno, quindi fatturato e ordinativi della nostra impresa. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Minuti. Allora, dicevamo catasto, Consiglio dei Ministri, dovrebbe iniziare tra circa 20 minuti il Consiglio dei Ministri, dovrebbe, perché ancora, se ho ben capito, non c'è un ordine del giorno chiaro. Ci sarà la questione dei dirigenti delle agenzie fiscali, ossia gli ispettori che avevano fatto contestazioni non avendone la qualifica e quindi non essendo dirigenti, la Consulta ha annullato quegli accertamenti, c'è stato un ricorso, abbiamo avuto anche il tributarista che ha assistito il cliente, ha vinto il ricorso. Non dovrebbe essere esaminato il decreto per la riforma del catasto, perché l'algoritmo che dovrebbe avvicinare i valori catastali con quelli di mercato, beh, insomma, avrebbe prodotto stime terrificanti in termini di aumento di gettito. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Gianni, c'è una cosa che non capisco. Ma a parte il fatto, è confermato che non ci sarà il catasto o ancora è un'ipotesi? È un'ipotesi, nel senso che c'è in corso proprio in questi minuti il pre-consiglio dei ministri, cioè la riunione tecnica, eccetera, e decideranno. Diciamo che le quotazioni della riforma sono in drastica discesa. Ecco, il motivo qual è? Perché vediamo di ripercorrere il tema. Nel momento in cui abbiamo raccontato parecchie volte quanto dall'ICI all'IMU alla TASI siano aumentate le imposte, che poi è una specie di patrimoniale, diciamola tutta, sulla casa, e a maggior ragione la battuta è stata mai levare una tassa in Italia perché poi ti rientra dalla finestra più alta, mi riferivo all'ICI. Il ragionamento del governo era stato: beh, attenzione, però adesso andremo anche a rivedere il catasto, perché siccome l'ICI si applica anche sul valore dell'immobile catastale, noi sappiamo tutti che ci sono parti dei centri storici, storici pregiatissimi da 8.000, 10.000 euro al metro quadro, 12.000 al metro quadro, che hanno ancora un basso valore catastale, perché quando fu fatto quel centro storico, quella parte del centro storico risultava come un'area popolare. So che può sembrare strano, ma se qualcuno si ricorda com'erano i centri storici in Italia negli anni 70 e anche nei primi anni 80, non è così strano. E poi ci sono case invece di zone semicentrali che, siccome erano già alte come valore allora e hanno un valore di mercato più basso adesso di altre zone, ma pagano un ICI più alta, un ICI, buonanotte, una TASI più alta, perché il valore catastale gli attribuisce un valore più alto. Come fa un algoritmo invece a far aumentare tutto? Perché se fosse un algoritmo corretto, avresti sostanzialmente chi ha la casa già simile al valore catastale come valore di mercato, poca variazione. Chi invece ha una casa dove il catasto dice che vale 1 e la casa attualmente vale 4, beh, lì dovresti vedere una bella rivalutazione. Ci risulta che i valori salirebbero ovunque, nonostante uno sconto del 30% previsto per attutire i rialzi, Particolarmente penalizzate le abitazioni classificate come economiche, categoria A3, A4, specie ubicate nei centri storici, ma gli incrementi riguarderebbero anche le periferie, addirittura 6 volte l'aumento del valore di un'abitazione a Napoli, 4 volte a Roma, 5 volte a Venezia. Gianni? Sì, certo, dovrebbero aumentare i valori, ma dovrebbe ridursi l'aliquota, nel senso che se tu raddoppi la base di calcolo e dimezzi l'aliquota, il risultato è uguale. Cosa succede però? Che si ipotizza, o meglio si ipotizzava forse ormai, una sorta di clausola di salvaguardia in cui si dice che noi rivalutiamo i valori capitali alzandoli in alcune zone di più, in alcune zone di meno, per alcune case di più, per alcune case di meno, e poi fissiamo l'aliquota nuova, più bassa di prima, che porta il gettito totale del comune a non superare il gettito attuale. Che cosa cambia? Che chi ha un valore catastale molto basso viene rivalutato molto, quindi paga di più, ma chi ha un valore catastale più alto della media viene rivalutato meno e dovrebbe pagare meno. Diciamo che evidentemente la politica non ha tutta questa certezza sulla efficacia della clausola di salvaguardia, e in effetti il passato anche recente fiscale impone cautela, diciamo così, ma soprattutto qui si è scatenata una battaglia politica, perché evidentemente il tasso di gradimento del governo, come risulta dalle ultime elezioni, è in calo e il governo è in difficoltà. Ci sarebbe stato, o c'è, una polemica politica sulla nuova mazzata, sulla casa, eccetera, e questo consiglia prudenza. Quindi, diciamo, a frenare è più il tema politico che il tema matematico. No, anche perché nei prossimi anni non succederebbe assolutamente nulla, perché una volta approvato il decreto ci vogliono almeno 5 anni, che poi sai in Italia diventano 10, per rifare tutti i calcoli, attuarlo e così via. Sì, noi sappiamo che il governo ha deciso di ricalcolare il valore di tutti gli immobili entro il 2019 e i metri quadrati sostituiranno un numero di vani, che è una cosa anche corretta, nel senso che il numero di vani appartiene un po' all'Italia degli anni 50, degli anni 60. Adesso tu, non è che un loft da 100 metri quadri valga meno, diciamo, di un trilocale da 80, cioè è cambiata anche l'architettura interna, e quindi si va a vedere come si fa quando si compra una casa. Cioè, quando compri una casa, in primo luogo ti fanno pagare i metri quadri, poi certo anche i vani, come è distribuita, ma il riferimento immediato è quanto l'hai pagata a metro quadro, non quanto l'hai pagata a vano. Allora, spariscono le categorie A1, A2, A3, eccetera. Si terrà conto dei parametri come la zona, il piano, la presenza di ascensori, i doppi servizi, l'esposizione, e va bene. Attualmente lo Stato incassa dalle tasse sulla casa 50 miliardi di euro, non lo Stato Roma, perché poi serve agli enti locali. Tu hai detto e ricordavi, il governo vuole mettere una clausola di salvaguardia, cioè se tu comune incassi 100, continuerai a incassare 100. È diverso il modo in cui verranno ripartiti, e qui la revisione catastale. Resta con noi Gianni, perché c'è anche un altro aspetto. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Allora, già ne trovati, fermo restando che, se abbiamo ben capito, il problema non è l'algoritmo. Io vedo molti messaggi, non ci troverei nulla di strano. È probabile che vengano penalizzate, Gianni, alcune abitazioni classificate come economiche, ma se sono ubicate nei centri storici sono abitazioni di grande valore adesso. Il problema sì, perché noi sono anni che raccontiamo le sperequazioni del catasto, no? Le belle case del centro che hanno valori catastali di molti decenni fa e quindi non riflettono i valori di mercato, mentre se tu abiti in periferia in una casa fatta l'altro ieri, esatto, anche il valore catastale ti è stato dato l'altro ieri e quindi è più aggiornato e più alto. Cioè, mi dispiace per chi scrive evidentemente a case di pregio nel centro storico e continua a pagare valori da più bassi della periferia. Fate la guerra lanciando brioche e caviale, che vi devo dire? Cioè, non è che possiamo occuparci di tutti. È corretto il principio per cui se molte aree dei centri storici italiani si sono di gran lunga rivalutate, devi pagare un po' di più e magari pagare un po' di meno chi sta in periferia e si vede cornuto e mazziato da questo punto di vista, perché abiti in periferia è un valore della tassa, della TASI, più alto rispetto a chi abita nel centro storico. L'altro tema in discussione dovrebbe essere un insieme di pacchetti di decreti fiscali, tra cui il provvedimento per risolvere la questione dei dirigenti delle agenzie fiscali. Insomma, la Consulta ha stabilito che tutte quelle gli accertamenti fatti da funzionari dell'Agenzia delle Entrate, che non erano dirigenti, mi sembra che siano 870, non sono validi. E abbiamo avuto ospite, dicevo, il tributarista che Reggi, che ha vinto la prima causa su questo. Che cosa dovrebbe decidere? Sì, allora la Consulta ha deciso che non erano valide le posizioni dei funzionari. Le posizioni sulla validità degli atti di accertamento si entra in un ginepraio. Ci sono un po' di commissioni tributarie che in effetti negano. Beh, commissione tributaria a Milano e a Lecce, adesso vado a memoria, Gianni, ma tu ne sai più di me. Sì, sono un po' in una direzione, un po' in un'altra. È ovvio che, insomma, se il dirigente era illegittimo, qualche problema c'è. Ma dovrebbe sostanzialmente, come dire, il provvedimento in discussione in Consiglio dei Ministri dovrebbe sostanzialmente ricostruire una condizione di legittimità in virtù della quale poi si faccia un nuovo concorso e si coprano una quota, non tutte, ma una quota delle posizioni dirigenziali con concorsi veri che producono dirigenti veri, perché i cosiddetti dirigenti illegittimi, che poi erano funzionari, erano lì perché di anno in anno, di proroga in proroga, eccetera, non si è mai fatto un concorso, si è creata una condizione sclerotizzata che poi è stata giustamente, e come era anche prevedibile, bastonata dalla Consulta. Trattasi di ripartire e di ricostruire un organico in cui i dirigenti hanno vinto un concorso da dirigenti. E vedremo se questo avrà un impatto. Vedo che alcuni la mettono sulla lotta di classe, non a Beverly Hills però, perché scrivono siccome pagherebbero, parlo del catasto, le conseguenze maggiori, i signori seduti in Parlamento, avvocati, notai, professori, quant'altro, la riforma del catasto non la fanno. Ma guardi, onestamente non so se ci sia anche una lobby del catasto, la lobby degli avvocati, l'abbiamo raccontata parecchie volte, la lobby delle professioni pure, la lobby del catasto, non lo so adesso se sia... certo, a guardare alcuni prezzi d'affitto dei comuni, di come gli enti locali affittano... un sospetto viene. No, penso che sia che abbia ragione Gianni Trovati. Se tu rischi comunque di farti un danno d'immagine, perché la vulgata è aumenterà la tassa sulla casa per tutti in questo periodo, con i problemi anche di consenso che ha il governo, forse la valutazione è più politica. Già mi vedo Salvini, ecco, che bastonano la casa degli italiani e invece paghiamo quelle degli immigrati. Grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Sì, c'è uno che scrive: è strano che qualcuno non abbia ancora affermato che chi abita in periferia utilizza più servizi per cui paga di più. Sei cornuti, ma allora, la riforma del catasto è una cosa di equità sociale, va fatta, se no tocca fare una puntata su quanto pagano persone che hanno, beati loro, la possibilità di acquistare locali da 12, 10, 9 mila euro al metro quadro e pagano molto meno di TASI e di ICI. Pagavano meno rispetto a persone che hanno comprato appartamenti nuovi ma di valore di mercato sui 3-4 mila euro, perché sono in zone periferiche o sicuramente non centrali. Allora, la borsa adesso, con il tempo che resta, poi la riprenderemo nella seconda ora del programma. Giornata, insomma, sulla scia di ieri: più 1,20% Parigi, più 0,70% Francoforte, non come aumenti, non come incrementi, ma come, diciamo, lettura. Più 0,13 Londra, più 0,35 invece Milano. Bene, Enel Green Power più 3,5%, Azimut più 2,90, STMicro Electronics più 2,80, Pop Milano più 2,70, Saipem più 2,5. Partiamo con Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera, Guido. Buonasera. Da Azimut, e poi dopo faremo gli altri titoli. Sì, allora, per quello che riguarda Azimut, oggi è arrivata, sono arrivati i dati sulla raccolta dei fondi per quello che riguarda il mese di maggio. Si tratta di dati nuovamente positivi dopo una piccola frenata che c'era stato il mese scorso. C'è una ripresa della corsa ai fondi comuni di investimento, c'è una raccolta di 16,5 miliardi, un nuovo record del patrimonio dei fondi italiani, per cui il titolo si è apprezzato su questa notizia. Ebbene, anche altri titoli oltre che Azimut, diciamo la Pop Milano più 2,70, bene, oggi tutte le banche sulla scia di un accordo, delle aspettative di un accordo sulla Grecia. Saipem più 2,5, Mediolanum più 2,5, Atlantia più 2,1, Ferragamo più 1,80, Pop Emilia Romagna più 1,70. Chi perde invece? Beh, sostanzialmente Unicredit meno 1%, CNH pure, Buzzi Unice meno 0,90%, Euro in indebolimento a quota 1,11. Ne parliamo dopo il GR24 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Debosciati d'Italia, unitevi! Sono Alessandro Milan e lo so che voi non ne potete più. Basta tasse, basta tasse, basta tasse. Lo so che avreste la ricetta giusta per i politici. La zappa ci vuole, la zappa da 7 chili. E allora eccoci, a 24 mattino siamo i primi a commentare le notizie del giorno, leggiamo i giornali, discutiamo, se necessario ci arrabbiamo, ma non abbandoniamo mai il buon umore. Insomma, la colazione migliore si fa con noi. Il caffè volentieri a tutti quanti. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 9 su Radio 24. Che te pozzino via fuoco, ciao Mila. Il segnale orario vi è offerto da... Proteggi la tua casa. Index Isola impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Sono Enrico Ruggeri. Ci sono molte storie che avete scelto voi a Il Falco e il Gabbiano. Tra le storie di questa settimana, Paola Cooper, scampata al braccio della morte fino al recente suicidio. Le brevi vite maledette di Sid Vicious e Kurt Cobain. Lutz Long e la sua amicizia con Jesse Owens, l'uomo che vinse contro Hitler. La follia, la solitudine e la grande poesia di Alda Merini. Vi aspetto su Radio 24 alle 15.30 con Il Falco e il Gabbiano. Cuore Denari Expo, 8 profili, 2 coach, un cuoco e un nutrizionista e uno stile alimentare da cambiare. Ma non solo, c'è anche la nostra lista della spesa, ricca delle migliori offerte sul mercato e in linea con un acquisto consapevole e sostenibile, che sono poi le parole chiave di Expo. Il sedentario, l'over 50, lo stressato, la coppia con e senza figli, lo sportivo, il vegetariano, la donna in gravidanza, seguiremo 8 categorie in cui tutti potranno riconoscersi. E allora andate subito a completare il questionario che vi aspetta sul sito di Radio 24. Cuore Denari Expo ogni mercoledì con Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani dalle 11 alle 12.30 su Radio 24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo ancora molti messaggi sul tema del catasto. Guardate che non abbiamo nessuna certezza che verrà toccato oggi dal Consiglio dei Ministri. Fanno notare alcuni ascoltatori che in Turchia ogni 4 anni una commissione strada per strada rivaluta i valori delle case e alcuni scrivono: nei centri storici non abitano solo i ricchi, la casa si può anche ereditare. È verissimo, nessuno ha detto che nei centri storici abitino solo i ricchi, ma una casa ereditata che paga un IMU di vecchio valore catastale è scollegata rispetto al valore di mercato di una casa del centro storico. Altri dicono: farei il cambio volentieri tra periferia e centro. Va bene, continuiamo invece con la borsa e poi vediamo cosa sta uscendo dal Consiglio dei Ministri. Allora, Guido Morino, dicevamo di Azimut, i dati sulla raccolta del risparmio gestito, raccolta dei fondi per il mese di maggio positiva per 16,5 miliardi, il patrimonio sale a 1.742 miliardi amministrati dai fondi comuni di investimento e è da un po' che va bene il dato diffuso da Assogestioni, ma è da un po' che va bene la raccolta dei fondi, segno che con i tassi di rendimento a zero gli italiani continuano o si spingono sempre di più verso il risparmio gestito. Unicredit oggi ha fatto eccezione venendo alle banche, meno 1%, anche Mediobanca perde lo 0,70 e Banca Popolare lo 0,70, però Unicredit è più visibile. Sì, su Unicredit, a parte qualche presa di beneficio dopo quello che c'è stato ieri, c'è queste notizie su una revisione, un aggiornamento del piano industriale che l'amministratore delegato Federico Ghizzoni ha annunciato ieri alla stampa estera. Tra le indicazioni che ha dato, ovviamente c'è quella del contenimento dei costi e di cercare di aumentare i ricavi, ma Ghizzoni ha sottolineato la difficoltà in questo momento di tenere ricavi alti, dato proprio dai tassi di interesse così bassi che rischiano un po' di andare a comprimere anche i margini, quindi i ricavi che fanno le banche. Sono state quindi indicazioni che per quanto prudenti hanno avuto anche una lettura e un impatto sul mercato che oggi ha penalizzato in parte Unicredit. Sì, per quello, c'è un ascoltatore che mi scrive perché non parlate dell'euro che cade vistosamente, ma io non so lei che film ha visto. L'euro è a quota 1,11, non mi sembra che cada vistosamente, l'abbiamo già visto a 1,09, 1,10, casomai si era un po' rafforzato durante la tensione greca, era andato 1,14, mi sembra che sia sui livelli degli ultimi mesi, di quando Draghi ha annunciato il quantitative easing, ma non solo. Andiamo avanti con gli altri titoli, CNH Industrial, Case New Holland, debole, meno 1%. Sì, per quello che riguarda il CNH, oggi la società ha annunciato l'intenzione di procedere a un'emissione obbligazionaria, però è un'operazione ancora tutta un po' da chiarire, perché non sono state date indicazioni sulle cifre di questa emissione obbligazionaria e anche le intenzioni con cui verranno utilizzate queste somme non sono ancora così chiare. È stato parlato genericamente di fabbisogni legati al capitale circolante per le generali esigenze dell'azienda, per cui è stato anche un po' un'occasione per prendere beneficio dopo alcune sedute positive di CNH. Ancora tra i titoli, Popolare di Milano è una delle banche oggi più in vista, scusatemi, più 2,70%. Sì, per quello che riguarda Popolare di Milano, oggi c'erano alcuni studi da parte di analisti su quelle che potrebbero essere le banche che beneficeranno della riforma fallimentare, anche in particolare di questa revisione che passa da 5 a un anno per le perdite legate ai crediti in sofferenza. Sembra appunto che BPM, stando ai calcoli degli analisti, sia uno degli istituti che potrebbe beneficiare maggiormente della riforma fallimentare allo studio da parte del governo, e un po' tutte le banche minori sono quelle candidate ad avere i maggiori benefici. Infatti vediamo che anche ad esempio BPR ha guadagnato l'1,74% e anche MPS più 0,72%, che anche se non è una Popolare è uno degli istituti candidati a beneficiare di questa riforma. C'è qualche novità sul titolo Primi sui motori, che si occupa di facilitare i motori di ricerca, cioè da consulenza, in modo che il tuo sito arrivi primo sui motori. Anni fa facevamo una battuta, pensavo fosse una società che si occupava di automotive, in realtà no, sono i motori di ricerca, e quindi lo dico perché ha fatto più 23% dopo essere calata per alcune sedute. Sì, oltretutto è stato un balzo che è arrivato proprio nell'asta di chiusura, per cui è ancora difficile da spiegare. Durante la giornata non era su questi valori. Non so se probabilmente anche un titolo poco liquido sia arrivato un ordine alla fine che abbia fatto balzare il titolo. Allora, il migliore appunto Primi sui motori, EMS più 18,45, Risanamento più 13,80, Innovatec più 10,90. Fronte opposto invece, Investimenti e Sviluppo meno 6,40, Iniziative Bresciane meno 4,55, Premuda meno 4%. Grazie a Guido Maurino, Radio Corriere, Sole 24 Ore. Mi scrive un ascoltatore: mette in luce anche qualche valore positivo nell'economia. Guardate, però dovete mettervi anche d'accordo, perché ogni volta che diciamo che c'è qualche segnale positivo arrivano bordate di sms, messaggi sul sito che siamo filo renziani, che teniamo la volata al governo. Noi diamo i dati che ci vengono forniti, né più né meno. E ricordo che nel nostro appuntamento del venerdì, oltre alla classifica poco invidiabile dei 5 sprechi della settimana, c'è sempre un imprenditore con una storia di successo, in primo luogo per il coraggio che ha avuto per avviare un'attività in questi anni di crisi. Comunque, stavamo parlando di dati economici e in attesa della consulta oggi sono usciti i dati economici. Allora, io vorrei parlare del commercio, visto che oggi sono migliorate le vendite a dettaglio ad aprile, più 0,7%, ma ancora ferme rispetto a un anno prima. Sono i piccoli negozi ad avere un piccolo incremento, sono ferme le vendite della grande distribuzione. L'industria invece ha avuto una crescita record ai massimi dal 2010 negli ordinativi industriali, di quasi l'8% in più rispetto a un anno prima e del 5,5% sul mese di marzo. E invece il fatturato industriale è tornato leggermente a calare ad aprile, meno 0,6%, molto bene il fatturato del settore auto, più 32,5%, sia il fatturato e gli ordinativi più 30%. Però la prima cosa che vorrei chiedere al nostro ospite, che è l'economista Gustavo Piga, insegna economia politica all'Università degli Studi di Roma di Tor Vergata. Buonasera professore. Ben trovato, come sta? Bene, grazie. Allora, sì, devo dirlo per forza, cosa posso dire? Male, va tutto male? No, però vorrei capire una cosa. Lei fu uno dei pochi economisti a dar ragione alla sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni, quella che mise in grossa difficoltà i conti dello Stato. È dello stesso avviso anche, tanto non conta nulla la sua e la mia opinione rispetto alla consulta, ma insomma, è dello stesso avviso anche su quanto dovrebbe comunicarci, speriamo entro oggi, la Corte Costituzionale, e mi riferisco alla legittimità del blocco degli stipendi nel pubblico impiego. Costerebbe, se venissero presi tutti i blocchi applicati dal 2011, 35 miliardi, se solo il blocco 2014-2015, 7 miliardi? Mi sono sempre chiesto, quando venivano fatti i tagli alle pensioni o i tagli che io, qui c'è un conflitto di interessi, sono un professore universitario che vede da anni bloccato il suo stipendio, ma è più rilevante ancora, vede tantissimi giovani che non entrano dentro l'università e vanno a fare strapagati l'università altrove, perché gli stipendi, che il primo stipendio è bloccato da 4-5 anni, lo stesso motivo. Mi sono sempre chiesto, di fronte a questi tagli alle pensioni, agli stipendi, perché non tagliavamo tanti altri settori dove veramente era evidente l'ingiustizia. Io che mi occupo di appalti pubblici da tutta una vita e abbiamo dati ad infinito, non si riesce a capire perché il Ministero del Tesoro, il Ministero delle Infrastrutture, questi dati che hanno nella loro pancia non li usano, non andavano a tagliare quei tagli, quelle componenti di spesa. Ricordiamoci che gli appalti sono il 15% del PIL, il 30% della spesa totale dovuti a corruzione o a incompetenza. La risposta che mi sono dato, siccome io sono un po' fissato con questa idiozia totale europea chiamata Fiscal Compact, è che questi tipi di tagli richiedono tempo, cioè richiedono competenze per trovare gli sprechi. Non a caso l'unico paese europeo che questi tagli veramente l'ha fatto, il Regno Unito, non ha il Fiscal Compact, ha deciso di non averlo e si è preso un sacco di tempo. La prima cosa che ha fatto è aumentare gli stipendi a tutti i suoi membri di stazioni appaltanti, e poi con queste persone brave ha cominciato a tagliare gli sprechi. Ci ha messo 6-7 anni e c'è riuscito. Mi dico, sì, abbiamo avuto anche ospite chi ha fornito il software per la Spending Review britannica, sì, per esatto, cui, per bravo, che è una società, certo, italiana, per cui. Una società italiana. Allora, non sto dicendo che dentro la pubblica amministrazione non ci sono sprechi, ma trovo un'ingiustizia somma tagliare tutti gli stipendi pubblici della pubblica amministrazione come è stato fatto. Poi ovviamente si dice sempre che noi facciamo le manovre espansive, no? Facciamo le manovre espansive perché non teniamo conto che il governo Renzi, per esempio, ha semplicemente confermato, e quindi questo è entrato nel tendenziale, ha confermato i tagli che aveva fatto Brunetta 5 anni fa. Quindi non è che Renzi è espansivo, quella parte di tagli che lui conferma non la mettiamo in conto a Renzi, però poi ogni tanto arriva una Corte Costituzionale che impazzisce e che dice no, attenzione, quelli sono incostituzionali, e ci rendiamo conto che effettivamente quei tagli da Renzi li ha fatti e adesso sono in pericolo. Allora io dentro l'università ho dei colleghi eccezionali, ho dei colleghi meno bravi, e sono tutti pagati uguale. E allora io mi dico no, il problema non è quello, né quello che dice la Corte Costituzionale né quello che ha fatto Renzi adesso. Il problema vero è saper far partire la macchina della spending review. Noi ci rifiutiamo di farla partire E io comincio a capire perché ci rifiutiamo di farla partire, perché quando vedo le collusioni mostruose che emergono nella mia città, a Roma, tra politica e malaffare, posso ben capire che non c'è nessuna voglia di farlo. E mi aspetto quindi che un leader che sappia volare alto questo porti avanti. Ma guardi, sulla spending review e sul tempo perso tra le dimissioni di Cottarelli e l'arrivo di Guttgart abbiamo fatto parecchi commenti, nel senso che vorremmo appunto che non si buttasse via tutto il lavoro fatto da Cottarelli, soprattutto sulle stazioni appaltanti. Sono 30.000, mi corregga se sbaglio, i centri che possono partecipare a una gara per acquistare materiale per la pubblica amministrazione. Ho visto che Guttgart dice arriveremo a 30, mi sembrano un po' poche. Basterebbe da 30.000 scendere a 3.000, già avresti un bel controllo, o a 300, ecco, perché poi se sono solo 30 partecipano a queste gare monster solo i grandi gruppi e non le piccole e medie imprese. Resti con noi invece, Piga, perché vorrei capire che cosa legge da questi dati di carattere congiunturale. Sono d'accordo con lei che dentro la spending review non ci sono solo le resistenze da casta dei dirigenti della pubblica amministrazione, dei capi dipartimento, dei capi di gabinetto, c'è anche la corruzione, ci sono anche tutto un insieme di malversazioni, per cui la situazione è più complessa. Traffico. Focus Economia. In generale il sistema pubblico italiano ha ancora molto molto molto molto da fare per semplificare le procedure. Vi segnalo, giovedì a Roma faremo una conferenza stampa per dimostrare come, se sbloccassimo, e vogliamo sbloccarli, nell'arco delle prossime settimane e mesi, i cantieri semplicemente fermi per ritardi, intoppi, problemi, ricorsi, TAR contro TAR e compagnia bella, se sbloccassimo questo avremmo più di un punto per cento di PIL, più di 17 miliardi di euro rimessi nell'economia. Nel prossimo anno, anno e mezzo, vedremo se il PIL, che è ritornato a crescere dopo 11 trimestri negativi, fa il salto. No, perché naturalmente noi siamo contenti che il PIL sia più 0,3, però ancora è poco rispetto a quello di cui abbiamo bisogno. C'è necessità di investire molto sull'edilizia. Allora, professor Piga, commenti se vuole anche i dati sul fatturato e i consumi, però io la vedo così: ammettiamo che domani, dopodomani, si chiuda la vicenda greca, perlomeno la parte più rischiosa, più politica, e si vada agli accordi tecnici. A questo punto la Grecia torna a non essere, speriamo, più un problema. Quando Renzi dice che bisogna sbloccare i cantieri fermi, ha ragione nel dire che lì generi tanta ricchezza sul territorio, vale anche per l'edilizia scolastica, perché sono piccoli appalti che però restano sul territorio. Di fondo, per fare un salto un po' diverso e non accontentarsi con la migliore delle condizioni esterne possibile, euro debole, petrolio basso, tassi a zero, di uno 0,7 quest'anno e di un 1,3 l'anno prossimo, non bisognerebbe chiedere con più forza di uscire da questo patto di stabilità interno, non quello con Bruxelles, e cioè quello che blocca i comuni virtuosi, cioè far ripartire in maniera massiccia in questo contesto economico internazionale che è favorevole gli investimenti, e sappiamo che l'edilizia ha questa grossa capacità, Volano? Assolutamente sì, c'era da aspettarselo, e per fortuna è successo che a seguito sia dell'andamento del prezzo del petrolio che del tasso di cambio che dei tassi di interesse una parte del paese ripartisse, ed è ovvio che è la parte del paese più internazionalizzata, quella, cioè se mi si svaluta il cambio, l'impresa non internazionalizzata lo sente poco questo beneficio. Quindi cosa abbiamo adesso? Abbiamo un paese spaccato totalmente in due, dove la parte competitiva grande, di grande dimensione o di media dimensione, che esporta, comincia a tirare, eppure anche, anche le piccole imprese in filiera, però quelle che fanno da fornitrici, assolutamente è un mondo virtuoso abbastanza localizzato a centro-nord, non necessariamente, ma cosa abbiamo? Abbiamo un paese spaccato in due, perché c'è un'altra parte invece che vive di domanda interna, e non necessariamente perché è inefficiente. Qualsiasi impresa che nasce, appena è nata, vende al vicino di casa, poi vende in città, poi vende in regione, e dopo un po' di anni, 4, 5, 3, se è efficiente, se è velocissima, comincia a vendere all'estero. Quel mondo di piccole imprese in questo momento non vede la luce. L'unico modo per farlo è, come giustamente dice lei, la domanda interna, e guardi caso la domanda interna in questo momento non è privata, perché consumi e investimenti non ripartono in un circolo vizioso. E quindi è ovvio che l'unica leva che rimane o è la minore tassazione, ma molto spesso in queste crisi di pessimismo la minore tassazione la gente la risparmia, o gli investimenti pubblici. E qui non è soltanto questione di patto di stabilità interno, anche se è vero che il patto di stabilità interno è un qualche cosa spesso di assurdo, ma è la questione delle regole europee, e qui si lega a cosa succederà con la Grecia, perché se la Grecia viene tra virgolette sconfitta, la mia grande speranza sulla Grecia era che riuscisse a far cambiare il modo in cui l'Europa fa politica economica. Certo non ha aiutato che l'Italia la lasciasse sola, come ha detto Varoufakis, completamente sola nelle negoziazioni. Anche la Spagna è per colpa di Podemos, perché anche la Spagna poteva, ma Rajoy ha così paura di Podemos che dice se diciamo diamo il via libera alla Grecia, poi io non tengo più Podemos. Però... Io questa miopia di Rajoy, pensi quanta gente, se Rajoy si schierava a favore di Tsipras, pensa quanta gente di Podemos avrebbe cambiato idea su Rajoy dicendo ma forse abbiamo un liberale però aperto e compassionevole, quindi voto lui e non voto. Quindi io questi tipi di ragionamenti li capisco poco. Detto questo, ripeto, noi non abbiamo nemmeno bisogno di sforare il 3% del deficit. Potremmo tranquillamente dire, siccome Renzi ha detto questa follia che gli ha ordinato l'Europa, che deve portare il deficit al 3%, addirittura più 0,4% nel 2019, quindi tagli di 10 miliardi, dire no, io rimango al 3%. Queste risorse, credimi, sono bravo io a fare bene la spending review, le userò bene e mi metto a fare quelle piccole opere di cui lei parlava così bene, soprattutto sull'edilizia scolastica, perché sono un simbolo, perché sono necessarie, perché fanno studiare meglio i nostri ragazzi e quindi c'è anche un effetto di produttività di lungo periodo e ridanno speranza al paese e ridanno fatturato alle piccole imprese. Sì, noi so che rischiamo di essere ripetitivi, però poi la Grecia ha travolto tutti, ma insomma occorre maggiore forza in Europa, ripeto, non facendo saltare il banco, ma per esempio dicendo no, perché mi devi portare il deficit zero o addirittura inattivo di bilancio, visto che sotto il 3% si ritiene che il deficit sia sostenibile e infatti non partono le sanzioni, io lo tengo per i prossimi anni al 3%, tutto quello che ho in più, perché non devo portarlo al 2, all'1,8 e poi all'1 e poi a 0, lo uso per iniziative. Il patto di stabilità interno esiste proprio per il deficit al 3%, cioè se tu a quel punto non hai più bisogno di ridurre così tanto il deficit, puoi anche permetterti di far ripartire per esempio l'edilizia scolastica, perché a me quello che non è piaciuto della frase di Renzi è: se sbloccassimo come vorremmo fare. È un anno che sei al governo, fatelo. Grazie a professor Gustavo Piga. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.